Innanzitutto bisognerebbe capire qual è la strategia che abbiamo adottato sinora, nel senso che l'andare a cercare gas in giro per il mondo per diciamo recuperare o cercare di affrontare il prossimo inverno è un'operazione molto difficile da fare in pochi mesi, proprio perché se si parla di industria del gas come di petrolio, come in generale una strategia energetica, bisogna pensarla nel medio e nel lungo periodo, e quindi si parla di anni per risolvere problemi e strutture che si sono andate a creare negli ultimi decenni. Ecco, pensare di risolvere tutto nel giro di pochi mesi è quantomeno fantascientifico. Il governo si è attivato molto, la nostra diplomazia energetica, chiamiamola così, si è data molto da fare in questi mesi, soprattutto andando a parlare con paesi che da più parti ci hanno fornito gas naturale e sempre più negli ultimi anni sono stati interessati al nostro mercato, come ad esempio l'Azerbaigian, che dal 2021 è diventato uno dei nostri fornitori principali grazie al gasdotto TAP. Ma non c'è solo l'Azerbaigian, ci sono altri paesi come l'Algeria, che è il nostro secondo fornitore, ma è in realtà storicamente il primo fornitore, è stato il primo fornitore dell'Italia per molti, molti, molti anni, prima della Russia, e che negli ultimi mesi sta a sua volta cercando di migliorare le condizioni contrattuali attraverso cui vende gas all'Europa, legando non soltanto una questione commerciale alla vendita di gas, ma anche la revisione dei prezzi in linea con quello che sono i mercati internazionali, che vedono il prezzo del gas in rialzo un po' su tutte le piazze. Quella europea è decisamente la più cara al momento, il gas che paghiamo noi è decisamente il più caro al mondo. Ieri il ministro Cingolani ha detto che bisogna accelerare per la realizzazione di due tipi di infrastrutture, diciamo così: da un lato i rigassificatori per il gas liquefatto che arriva via nave, dall'altro gli stoccaggi. Attualmente, secondo i dati Enea, siamo al 64%. Ecco, sono cose anche queste che si possono fare in breve tempo o dobbiamo aspettarci un inverno con qualche difficoltà? Alla fine dei conti, accelerare gli stoccaggi e accelerare la costruzione dei rigassificatori vuol dire una cosa sola: aumentare ulteriormente la domanda e aumentare continuamente gli approvvigionamenti dall'estero di gas naturale, e questo vuol dire pagarlo molto in un mercato globalizzato, perché per aumentare gli stoccaggi occorre gas naturale proveniente da appunto paesi che sono già nostri fornitori, come l'Algeria, la Norvegia o gli Stati Uniti, che venderanno gas a noi soltanto se saremo capaci di pagarlo di più di altri concorrenti. E quando parliamo di noi, parliamo di Italia in questo caso, non parliamo di Unione Europea, che nonostante abbia costruito nelle ultime settimane, ultime mesi, avrà proposto una piattaforma comune di acquisto di gas naturale, in questo momento questa piattaforma sostanzialmente non sta gestendo alcun volume, proprio perché sono le diverse compagnie che fanno capo a governi che partecipano in queste stesse compagnie a influenzarne le strategie, e quindi in un contesto commerciale chi paga più riesce ad aumentare i propri stoccaggi e i propri approvvigionamenti. Questo noi l'abbiamo fatto perché ci sono alcune aziende che nelle ultime settimane sono state incaricate dal governo di aumentare appunto questi stoccaggi, facendolo però grazie a fondi messi a disposizione dal governo, proprio per evitare che durante il prossimo inverno rimarremo senza gas naturale. Detto questo, quanto ci costa questa strategia? Perché parliamo ormai nell'ordine di miliardi, quello che l'anno scorso veniva pagato 20, quest'anno viene pagato 100, questa è più o meno la proporzione a cui assistiamo oggigiorno, e il prezzo del gas continua ad aumentare, difficilmente vedremo un suo volgere al ribasso nei prossimi mesi, prima del prossimo inverno. Ecco. Questo si riverberà anche su, come dire, i prezzi poi dei consumatori, delle bollette? Dipende quale sarà la strategia del governo e come cercheremo, se da europei, da italiani, di provvedere a questa crisi che continuerà nelle prossime settimane a prescindere da quello che sarà la volontà o meno del nostro governo. Alla fine del mese la Commissione Europea dovrà presentare questo piano continentale, che quindi dovrà coinvolgere tutti i 27 paesi che fanno parte oggi dell'Unione Europea nella riduzione complessiva della domanda di gas naturale, che però in realtà sta già avvenendo, perché a questi prezzi chiaramente le industrie ne consumano consumano di più, addirittura alcune filiere hanno dovuto rallentare le produzioni o addirittura interromperle, e altri consumatori decidono di fornirsi di altri mezzi per riscaldare case o per alimentare i propri apparecchi casalinghi, o gli stessi imprenditori alimentare i propri macchinari a livello industriale. Quindi questa riduzione della domanda vi sarà naturalmente, visti questi prezzi, ma a quale costo? Perché chiaramente lo stop al gas naturale fa sì che la risposta più immediata sia l'utilizzo di altri combustibili fossili, e quindi maggiori emissioni e sostanzialmente un ritorno e diversi passi indietro nei confronti del processo di transizione energetica a cui sia la Commissione che il nostro governo hanno dedicato molte parole nei mesi, negli anni scorsi.